Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. Castorp si offrì a Settembrini per padrino. L'offerta fu respinta. No, non era adatto. Non era una soluzione conveniente, gli fu risposto anzitutto dallo stesso Settembrini, con un sorriso fine e doloroso. Poi, dopo breve riflessione, anche da Ferge e Vesal, i quali, senza indicare i motivi, furono del parere che la presenza di Castorp allo scontro in quella veste non stava bene. Poteva eventualmente intervenire sul campo come arbitro, poiché anche la presenza di una persona imparziale era uno dei prescritti addolcimenti cavallereschi della bestialità. Persino Nafta, per bocca del suo portavoce Vesal, si disse d'accordo, e Castorp ne fu contento. Testimone o arbitro, in ogni caso acquistava il potere di influire sulla determinazione delle modalità, e ciò si rivelò duramente necessario. Nafta, infatti, faceva proposte dissennate. Pretese 5 passi di distanza e all'occorrenza l'uso di 3 pallottole. La sera stessa della rottura pose queste folli condizioni per il tramite di Vesal, che si era fatto portavoce e cieco rappresentante dei suoi sbrigliati interessi, e parte per l'incarico ricevuto, parte per il suo gusto personale, insisteva su quelle condizioni. Settembrini, naturalmente, non trovò nulla da ridire, ma Ferge, quale secondo, e l'imparziale Castorp erano fuori di sé. Quest'ultimo fu persino villano col misero Vesal. «Non si vergognava», gli domandò, «di tirar fuori quelle fastidiose balordaggini, trattandosi di un duello meramente astratto, senza il fondamento di un'ingiuria reale? Non bastava l'atrocità delle pistole, occorrevano anche quei crudeli particolari. Non era più cavalleria quella, tanto valeva spararsi attraverso un fazzoletto. Certo, non toccava a lui Vesal farsi sparare addosso da quella distanza, per questo aveva così facile la parola sanguinaria», e così via. Vesal si strinse nelle spalle, alludendo senza parole alla situazione radicale e disarmando, per così dire, la parte avversaria, che tendeva a dimenticarsene. Comunque fosse, nelle trattative del giorno seguente, questa riuscì anzitutto a ridurre le pallottole a una sola e a regolare la distanza in modo che i duellanti si dovessero affrontare a 15 passi, col diritto di avanzare di 5 prima di sparare. Ma anche questo accordo fu raggiunto in cambio dell'assicurazione che non si sarebbero fatti tentativi di riconciliazione. D'altro canto, non c'erano le pistole. Thank you. Le pistole le aveva il signor Albin. Oltre al piccolo lustro revolver col quale si divertiva a spaventare le signore, possedeva due pistole da ufficiale, gemelle, adagiate nel velluto di un astuccio comune, proveniente dal Belgio, Browning automatiche, con l'impugnatura di legno marrone, nella quale era allogato il caricatore, col meccanismo d'acciaio azzurrino e la lucida canna tornita sulla cui bocca era fissata la breve mira. Una volta Castorpe le aveva viste nella camera del fanfarone e ora, contro la sua convinzione, per mera imparzialità, si offrì di chiedergliele in prestito. Così fece senza nascondere lo scopo, ma coprendolo di segreto sulla parola d'onore e appellandosi con facile successo al senso cavalleresco di quello sventato. Albin lo istruì persino nel caricare e in presenza sua, all'aperto, sparò con entrambe le armi colpi di prova a salve. Tutto ciò richiese del tempo, sicché prima dell'appuntamento passarono 2 giorni e 3 notti. La località dello scontro fu una trovata di Castorp, che aveva proposto il luogo pittoresco, dall'estiva fioritura azzurra, del suo sovrano ritiro. Là, la terza mattina dopo il litigio, appena la luce era sufficiente, si sarebbe risolta la vertenza. Soltanto la vigilia, a tarda ora, Castorp, che era molto agitato, ricordò che era necessario avere anche un medico sul terreno dello scontro. Discusse subito con Ferge questo punto particolare, che presentava molte difficoltà. Radamanto, da studente, era stato iscritto a una corporazione, ma non si poteva certo chiedere al direttore del sanatorio l'assistenza in una simile illegalità, tanto più che si trattava di suoi pazienti. In genere c'era poca speranza di trovare un medico disposto a intervenire in un duello alla pistola tra 2 malati gravi. In quanto a Krokowski, non si era nemmeno sicuri che quel pensatore fosse molto pratico di chirurgia. Vesal, interpellato, comunicò che Nafta si era già pronunciato su quel punto. Non voleva il medico. Non si recava lassù per farsi ungere e fasciare, ma per battersi, e molto seriamente. Del dopo non gliene importava nulla, e si poteva regolarsi secondo le circostanze. Era una comunicazione sinistra, ma Castorp si sforzò di interpretarla come se Nafta fosse tacitamente dell'opinione che il medico sarebbe stato superfluo. Non aveva mandato a dire anche Settembrini, per il tramite di Ferge, che si poteva sopprimere il problema perché non lo riguardava? La speranza che in fondo i due avversari fossero uniti nel proposito di non arrivare allo spargimento di sangue non era del tutto irragionevole. Dopo quel diverbio avevano dormito 2 volte e ne dovevano dormire una terza. Un fatto che fa sbollire i calori, che chiarisce. Uno stato d'animo non resiste immutato al volgere delle ore. L'indomani mattina, con l'arma in mano, nessuno dei combattenti sarebbe stato lo stesso del giorno del litigio. Agivano semmai macchinalmente, costretti dallo spirito cavalleresco, non già secondo il libero arbitrio del momento, come avrebbero invece agito allora, per smania e convinzione. E un siffatto rinnegamento del loro io attuale in favore di quello che erano stati una volta si doveva poter evitare in qualche modo. Castorp non aveva tutti i torti con la sua considerazione. Purtroppo però soltanto in un modo che non si sarebbe mai figurato. Aveva perfino pienamente ragione per quanto riguarda Settembrini. Se però avesse sospettato in che senso Nafta avrebbe mutato il suo proposito fino al momento decisivo, o in quel momento stesso, nemmeno le circostanze interiori dalle quali tutto ciò proveniva lo avrebbero indotto a permettere ciò che si preparava. Alle 7 il sole era ben lontano dallo sbucare di dietro la sua montagna, ma l'alba sorgeva faticosamente fra i vapori quando Castorp, dopo una notte inquieta, lasciava il Berghof per recarsi all'appuntamento. Le donne di servizio che facevano pulizia nel vestibolo alzarono gli occhi dal lavoro e lo guardarono meravigliate, ma trovò che il portone principale non era chiuso. Ferge e Vesal, insieme o isolati, dovevano essere già passati. L'uno per andare a prendere Settembrini, l'altro Nafta, e accompagnarli al luogo dello scontro. Castorp s'avviò da solo, perché la sua qualità di arbitro non gli consentiva di unirsi a una delle due parti. Camminava macchinalmente e costretto dallo spirito cavalleresco sotto il peso delle circostanze. Che egli assistesse allo scontro era ovvia necessità. Impossibile sottrarsi e aspettare a letto il risultato. In primo luogo perché... Ma non tradusse in parole il primo luogo e passò subito al secondo luogo, che non era lecito abbandonare le cose a se stesse. Non era ancora successo nulla di grave, grazie al cielo, e non era necessario che succedesse. Anzi, era poco probabile. Aveva dovuto alzarsi alla luce della lampada e, senza far colazione a quell'ora mattutina cruda e gelida, doveva incontrarsi con gli altri. Così era convenuto. Ma poi, per effetto della sua presenza, tutto senza dubbio si sarebbe risolto in bene, serenamente, in qualche modo, in un modo che non si poteva prevedere, ed era opportuno astenersi dal volere indovinare, perché l'esperienza insegna che anche il fatto più modesto si svolge diversamente da come si è tentato di immaginarlo in precedenza. Eppure quella era la più spiacevole mattina che gli fosse dato di ricordare. Fiacco insonnolito stava quasi battendo i denti dal nervosismo, e dentro di sé, non molto in fondo, era tentato di diffidare degli argomenti coi quali cercava di acquietare se stesso. Tra sensazioni e pensieri così misti e alterni, salì nella mezza tenebra che lentamente si andava diradando da Dorf, dall'inizio della pista di Bob, per uno strettissimo sentiero sul versante, raggiunse il bosco carico di neve, valicò i ponti di legno sopra la pista e, per una viottola che pareva tracciata più dai piedi che dalla pala, proseguì in mezzo agli alberi. Siccome saliva in fretta, raggiunse presto Settembrini e Ferge, il quale portava l'astuccio delle pistole sotto la mantellina. Castorp non si fece scrupoli di accompagnarsi a loro, e appena fu al loro fianco scorse anche Nafta e Vesal, che erano poco più avanti. «Mattina fredda, almeno 18 gradi», disse con buone intenzioni, ma restò sconcertato dalla frivolezza delle sue parole e soggiunse: «Signori, sono convinto...» Gli altri tacquero. Ferge faceva ballare i baffi bonari in su e in giù. Dopo un po' Settembrini si fermò, prese una mano di Castorp, vi posò anche l'altra e disse: «Amico mio, io non ucciderò. Non lo farò. Mi offrirò alla sua pallottola. È tutto quanto l'onore mi può chiedere. Ma io non ucciderò. Ci conti». Lasciò andare la mano e si rimise in cammino. Castorp ne fu profondamente commosso, ma fatti alcuni passi, osservò: «Molto bello da parte sua, signor Settembrini, se non che, per contro, se lui per parte sua...» Settembrini si limitò a scuotere la testa, riflettendo che se l'uno non sparava, non era possibile che l'altro avesse il coraggio di farlo. Castorp si convinse che tutto prometteva bene, e le sue ipotesi cominciavano ad avverarsi, e si sentì sollevato. Thank you. Buongiorno! Augurò Castorp con voce gaia, desiderando di recare subito fra i convenuti un suono naturale che doveva contribuire a dissipare il male. Ma ebbe poca fortuna, perché nessuno gli rispose. I saluti che si scambiarono erano muti inchini, rigidi fino a non farsi notare. Ciononostante rimase risoluto a usare senza indugio per il buon fine la commozione dell'arrivo, la cordiale accelerazione del respiro, il calore che gli aveva messo addosso la veloce passeggiata nel mattino invernale, e cominciò. «Signori, sono convinto!» «Le sue convinzioni le esporrà un'altra volta!» lo rimbeccò freddamente Nafta. «Le armi, per favore!» soggiunse con la stessa alterezza. E Castorp, zittito, dovette vedere come Ferge tirava da sotto il mantello il fatale astuccio, e come Vesal, che gli si era avvicinato, prendeva in consegna una delle pistole per passarla a Nafta. Settembrini prese l'altra dalle mani di Ferge. Poi si dovette far largo, secondo il mormorato invito di Ferge, il quale si mise a tracciare e segnare le distanze, il limite esterno segnando col tacco brevi linee sulla neve, le barriere interne piantandovi due bastoni, il suo e quello di Settembrini. Ma che cosa stava facendo quel paziente bonaccione? Castorp non credeva ai propri occhi. Ferge aveva le gambe lunghe e le usava, sicché almeno i 15 passi diedero una distanza cospicua, anche se c'erano quelle maledette barriere che in realtà non distavano molto l'una dall'altra. Certo, le sue intenzioni erano oneste, ma quale nebbia lo offuscava costringendolo ad agire mentre prendeva quei mostruosi provvedimenti? Nafta, che aveva buttato la pelliccia nella neve, sicché se ne vedeva la fodera di visone, con la pistola in mano mise il piede su una delle righe esterne, non appena fu tracciata, mentre Ferge continuava le misurazioni. Quando ebbe finito, anche Settembrini, con la logora giacca di pelo sbottonata, si mise al suo posto. Castorp si scrollò di dosso il suo intontimento e si fece avanti di nuovo. «Signori!» disse in orgasmo. «Non precipitiamo! Nonostante tutto è mio dovere...» «Stia zitto lei!» esclamò Nafta reciso. «Voglio il segnale!» Ma nessuno diede il segnale. Non avevano preso tutti gli accordi. Si doveva dare il via, ma non vi si era pensato, e in ogni caso non si era menzionato che toccava all'arbitro impartire quello spaventoso comando. Castorp stette zitto e nessuno lo sostituì. «Noi cominciamo», dichiarò Nafta. «Venga avanti, signore, e spari!» gridò all'avversario e cominciò a procedere con la pistola in pugno e il braccio teso contro Settembrini all'altezza del petto. Uno spettacolo incredibile. Settembrini fece altrettanto. Al terzo passo l'altro, senza sparare, era già arrivato alla barriera, alzò la pistola molto in alto e premette il grilletto. Lo sparo secco destò molti echi. I monti si rimandarono il tuono e il rimbombo. La valletta fu piena di fragore e Castorp pensò che la gente sarebbe accorsa. «Lei ha sparato in aria», disse Nafta dominandosi e abbassando l'arma. Settembrini rispose: «Io tiro dove mi pare. Lei sparerà un'altra volta. Nemmeno per sogno. Ora tocca a lei». Con la testa sollevata a guardare il cielo, Settembrini si era messo un po' di fianco rispetto all'altro, non di faccia. Commovente da vedere. Era chiaro, doveva aver sentito dire che non bisogna offrire all'avversario la persona quanto è larga, e si atteneva a questa istruzione. «Vigliacco!» gridò Nafta, ammettendo così che ci vuol più coraggio a sparare che a farsi sparare addosso. E alzata la pistola in un modo che non aveva più nulla a che fare col conflitto, si sparò alla tempia. Scena miseranda, indimenticabile. Mentre i monti giocavano alla palla col fragore del suo misfatto, barcollò o precipitò alcuni passi all'indietro, mandando avanti le gambe. Descrisse con tutto il corpo una violenta svolta a destra e cadde con la faccia nella neve. Lì per lì tutti rimasero di sasso. Settembrini, buttata lontano la pistola, fu il primo ad accorrere. «Disgraziato!» esclamò. «Che cosa fai, per amor di Dio?» Castorp lo aiutò a voltare il corpo, Videro il buco rosso-nero accanto alla tempia. Videro un viso che conveniva coprire col fazzoletto di seta, del quale una cocca sporgeva dal taschino di Nafta. Piero Baldini ha letto La montagna incantata di Thomas Mann. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it